sempre troppa importanza a quel che dice la gente. La gente giudica, giudica senza sapere mai niente e parla continuamente di cose fatti che neanche conosce. Non ha la regola in mente. Prima pensa, poi parla, perché parole poco pensate portano pena. Prima pensa, poi parla, perché parole certezze. Bye.